perde. Lavoro de merda, io non me ne vado. Giubilo de merda, io non me ne vado. Lavoro de merda, io non me ne vado, no. Io la mattina quando mi sveglio a me mi tocca essere duro. Mannaggia il presente e pensa solo al futuro. La mattina quando mi sveglio a me mi tocca essere duro. Mannaggia il presente e pensa solo al futuro. Perché quando che ti avvicini a una vetrina la guardi un po' e te ne vai più incazzato di prima. Le cose costano troppo e si stringa ancora di più la cinta. Mo faccio il botto, allora che fai? Provi a andare a lavorare. Ma una cosa sicura ti dico, non ci pensa. E da scippa, piuttosto mi dai una mano, non me vai da spaccia, mi pare da andare a ruba. A cannace, lasciaci perdere. Tana vai. A cannace, lasciaci perdere. Gesù Cristo se spingeva che lui il pane moltiplicava. Politico medio italiano non mi pare che fa sta strada. Mi sa che a te ti piace la pappa e la ciccia. Peccato vedete però la domenica piglia l'ostia con la chiesa al Vaticano. Un patto hanno sancito. Dio chiude in occhio a volte se è pure bendato. Puntuale la domenica lavate la coscienza. Chiesa è mala politica, bella convivenza. A cannace, lasciaci perdere. Tana vai. A cannace, lasciaci perdere. Te racconto una cazzata. Davo per quartiere mio a fare una passeggiata. E mentre stavo a camminare la gente sul balcone si me stava a guardare. Ma come cazzo in giro sti capelli come li ha fatti a fare? Me sa che fuzzi pure vatta a lavare. Allora voglio stai là a spiegare che li capelli li porto come cazzo me pare. A voi che tanto sta da criticare, a voi che della poltrona mi riuscite a piazzare. Con noi in posto s'andiamo a occupare. Alzate il comitino e cominciate a grattare. Voi che pena canna vi riuscite a turbare. A voi la verità non vi riguarda serate. Che è sempre festa e nessuno ve può toccare. A voi, gente senza cuore. A voi, gente senza cuore. A voi, gente senza cuore. A cannace, lasciaci perdere. A cannace, lasciaci perdere. A cannace, lasciaci perdere. Perché il politicone generalmente è imprenditore, amico del magistrato che gli fa da protettore. Ospite d'onore per l'altissimo signore, con le mani giunte insanguinate. Le corruzione potrà tutte le teorie economiche che utilizzate. Genti senza soldi sono le prime indiziate. Privilegi sociali sbagliano strade e poi se perdono. Ma arrivano guarda caso da chi già c'ha il culo comodo. Privilegi sociali sbagliano strade e poi se perdono. Ma arrivano guarda caso da chi già c'ha il culo comodo. A cannace, lasciaci perdere. Ed eccoci qui, Regione Air, come ogni martedì, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, vi terremo compagnia per un'ora intera, restate con noi. E sono le 4:13 minuti e siamo di nuovo pronti per intrattenervi per circa un'ora con il nostro programma Regione Air sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi è un giorno speciale, abbiamo il piacere di farvi compagnia in un pomeriggio in cui si ricorda Valerio Verbano che ormai 31 anni fa è stato ucciso qui a Roma da un gruppo di fascisti. E, perciò parleremo del tema dell'antifascismo e dell'antifascismo nelle scuole e nella seconda parte della puntata avremo un ospite speciale, Evelina, che ci farà compagnia con un po' di musica dal vivo. Lei suona il sax e perciò ascolteremo un po' di buon jazz. Ficatini inamidati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impetiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda se calzone, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20 a 1 è la tua forza, fascio, infame, ti nascondi e dalle spalle

mentre negli altri stati come lo Yemen continuano le manifestazioni, o c'è al medio almeno di uno o due morti al giorno. Quindi questa rabbia nordafricana continua a esplodere in tutto il Nord Africa. Ovviamente Gheddafi sembra stia preparando una fuga verso il sud, verso gli stati che gli sono più amici. Non auguriamo alla Libia e a tutti i manifestanti di continuare la loro lotta, di non fermarsi. Esprimiamo solidarietà sicuramente alle vittime di questi giorni, alle loro famiglie, ma ancora una volta li invitiamo a continuare a lottare per i loro diritti e per avere un giorno una democrazia che non sia finta. Antifaschist für immer. Ich wurde so geboren. Ich werde so bleiben, bis ich sterb. Ich wurde so geboren. Radikal, radikal, radikal. Nazi-Propaganda, sie schwebt überall im Netz. Sie fühlt sich wohl im Bundestag im neuen Einreisegesetz. Dann fand ich, wo man über die scheinbare Ausländer von hetzt. Fühlt sie sich zu Hause, in den Köpfen sitzt sie fest. Ohne Verstand mit Waffen und die Zähne voll gewetzt. Wenn unzählige Menschen bis zu ihrem Tod gehetzt. Es wird auf Rasseführer und das Vaterland gesetzt. Zu viele Menschenleben hat diese Ideologie zerfetzt. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Sprach es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Sprach es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich wurde so geboren. CDs verteilen, in Stadien Schlägereien, Liedermacher rechts, Rock für jeden was dabei. Dumpfe rechte Sprüche finden sich in vielen Parteien. Ja, es brennen Häuser und die Toten schreien sie keil. Manche sind schockiert, doch wenig Leute greifen ein. Ich werde nicht ruhen, ich will den Globus Nazi frei. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich frag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Denn je mehr Leute sich trauen, sich mehr zu stellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich wurde so geboren. Eccoci di nuovo in onda. Allora, oggi 22 febbraio, ricordiamo alle 4 adesso l'iniziativa Un Fiore Sotto Casa di Valerio, in cui sono presenti i compagni più vicini, e poi alle 5 il corteo che partirà da sotto casa sua per sfilare per le vie del Tufello. E Valerio era un ragazzo della nostra età, forse è questo quello che ce lo fa ricordare più fortemente anche all'interno delle nostre scuole. Valerio aveva 19 anni e da 2 era entrato nel collettivo autonomo della sua scuola, l'Archimede, che ogni anno non perde l'occasione comunque per ricordarlo con assemblee e conferenze. Aveva 19 anni e da 2 anni insieme al collettivo, insieme ad altri ragazzi sempre della nostra età, studenti nei licei, aveva iniziato un progetto di controinformazione, un progetto di controinformazione che l'aveva portato ad avere foto, nomi, indirizzi di fascisti, ma non solo, anche di politici e di poliziotti che in qualche modo erano in collegamento tra di loro, e quindi era una vera e propria schedatura di controinformazione. Per questo probabilmente, come crediamo noi, sia stato ucciso dentro casa davanti ai suoi genitori. Il ricordo è importante comunque nelle nostre scuole tra di noi, perché si trattava di un ragazzo della nostra età, un 19enne, e quindi questo ci fa, ogni volta ricordiamo Valerio, lo ricordiamo anche per attualizzare un po' i suoi ideali, portare avanti quello un po' quello che lui stava lavorando, quindi controinformazione, quindi denuncia della violenza fascista e dei legami che ci stanno con lo Stato. Sì, la controinformazione, che è un po' anche il nostro scopo di questo nostro programma in radio di Region Air, controinformare, offrire notizie che sì, si possono leggere sul giornale, ma dargli un taglio giovanile, un taglio da persone che hanno 16, 17, 18 anni, che vivono ancora il mondo della scuola. Nelle scuole è forte il ricordo di Valerio, ma di tutti gli antifascisti, anche perché sicuramente il fascismo si è cambiato, adesso si chiamano fascisti del terzo millennio, ma la loro violenza, la loro democrazia mascherata, dicono di fare politica, ma in realtà sono sempre fascisti, sono sempre violenti. C'è stata un'aggressione anche all'inizio del mese che è stata ricordata dalle scuole di Prati, a Ponte Milvio è stato fatto un presidio settimana scorsa, questo sabato, e sempre per ricordare e rinnovare quello che è la nostra lotta al fascismo e a questi modi violenti di fare politica. Sì, il fascismo esiste ancora come esisteva negli anni 70, e è lo stesso che Valerio, insomma, lo stesso fascismo che Valerio cercava di combattere con il dossier che aveva creato. Certo, quelli erano anni diversi, gli anni più caldi degli scontri tra fascisti e antifascisti, insomma, tutte le realtà antifasciste. E, al giorno d'oggi, certo, la situazione è più tranquilla, non si vedono morti tutti gli anni tra fascisti e antifascisti, ma il fascismo esiste ancora. E nelle scuole le organizzazioni fasciste cercano ancora di entrare, cercano di prendere potere entrando nei consigli d'istituto, e quando non ci riescono vanno sotto le scuole dove il controllo è, diciamo, antifascista. Pare brutto dire il controllo è antifascista, perché pare qualcosa di poco democratico, comunque insomma scuole di realtà non fasciste. Sì, certo, come dicevi te adesso, appunto siamo in un periodo differente, probabilmente meno buio rispetto agli anni 70 e 80, ma comunque appunto il problema del fascismo esiste ancora. E se vogliamo si può dire che oltre al problema del fascismo c'è anche il problema di un'indifferenza di fondo, e per noi è importantissimo quindi parlare di questi fatti, mantenere la memoria viva su Valerio e su tutte le vittime del fascismo, proprio per far capire quanto sia importante avere un vero e proprio sentimento di antifascismo, un vero e proprio senso di antifascismo da tenere sempre vivo dentro di noi. E quindi per questo anche il tema centrale di questa della nostra trasmissione di oggi è proprio l'antifascismo. E poi diciamo che le principali motivazioni per le quali combattere il fascismo negli anni 70 erano differenti da quelle di oggigiorno, perché oggigiorno appunto abbiamo detto che forse sono anni un po' meno bui, gli scontri non sono più così violenti come 40 anni fa, ma soprattutto diciamo le organizzazioni fasciste cercano di diffondere un'informazione distorta, e quello lì è il tema principale, insomma, il fulcro del fascismo da combattere veramente. Adesso facciamo una pausa musicale con gli Scapè in Funifa. Mitines sin credibilidad, frases a caret angelical, se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes, te aplastará. Años te dan la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Allora, è proprio in questa giornata così speciale, importante per il ricordo di Valerio Verbano, molte scuole, soprattutto a Roma, si sono mobilitate nelle proprie assemblee di istituto, nelle assemblee cittadine, con tutti gli studenti, tutte le realtà dalle differenti scuole, quindi non soltanto l'Archimede, che era la scuola appunto che frequentava Valerio, ma tutte le scuole. Moltissime scuole romane, tra cui anche il Mamiani, che ha fatto, diciamo, ha invitato un ospite, uno scrittore che ha scritto un libro sulla storia di Valerio Verbano, anche con i racconti della madre Carla. Adesso un altro piccolo intervallo musicale. Sì. Siervo di Dio. Siervo di Dio. Siervo di Dio. Tocamientos, sacramentos, velaciones, juramentos, enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. Nuestro tatuado, al Padre nuestro, líbranos de él. En la sacristía, mucha perestía, al Padre nuestro, más líbranos de él. Con violación, dejación y examen. Siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando Region Air e loro sono sempre gli Scapè. Allora, rieccoci qua. Alma Miani, come stavamo dicendo prima, ha avuto una settimana di piccole iniziative dentro scuola sua, partendo dall'assemblea d'istituto che ha visto incontrare, diciamo, il vecchio antifascismo e il nuovo antifascismo, in canale da una signora anziana partigiana e staffetta invece partigiana. Il Marco Capoccetti Boccia, che ha fatto la tesi proprio su Valerio Verbano e che ci ha permesso anche di discutere anche su cos'è la controinformazione, come dicevamo prima, ma anche su come cosa è successo a Valerio e anche quello che poi è scaturito dopo i problemi giudiziari, un giudizio, delle colpe mai inserite mai a qualche assassino, anche se la notizia di oggi che il caso Valerio Verbano si era aperto per qualche prova che è uscita fuori, quindi speriamo che si possa arrivare a una verità. Tornando al Mamiani, oggi l'Aula Magna si è riempita di studenti che hanno partecipato allo spettacolo Rosso Vivo di Attrice Contro, che giusto un'ora fa stava qui in radio a presentare il suo lavoro. Studenti del Mamiani quindi sono stati fortunati, hanno potuto conoscere, anche sentire il suo lavoro, che è il racconto della madre di Carla Verbano sulle vicende di Valerio. E anche stasera l'attrice starà anche alla Palestra Popolare Verbano dopo il corteo alle 8. E comunque quello che ancora, di cui ancora non abbiamo parlato, forse sono anche le aggressioni, quindi questo neofascismo, questi fascisti, studenti fascisti, come si comportano adesso nelle nostre scuole. Spesso i volantinaggi, i provocatori sono all'ordine del giorno davanti a vari istituti, piccoli problemi hanno gli studenti, piccoli grandi problemi hanno gli studenti, e anche molte aggressioni, anche diciamo l'estrema destra, i fascisti sono stati partecipi di molte aggressioni verso anche gli stessi studenti dentro le scuole. Sì, appunto, in questo periodo particolarmente, soprattutto nelle scuole del centro di Roma, ci sono stati volantinaggi da parte di Blocco Studentesco e di altre realtà neofasciste, volantinaggi in cui loro ribadiscono di voler fare politica, di portare la loro politica, che poi è una politica, diciamo, non così, la fanno sembrare non così schierata, si definiscono fascisti del terzo millennio, rinnegano quelli che sono stati i genocidi del Novecento, ma in realtà sono ancora persone xenofobe, razziste, sessiste, che avversano gli immigrati, che se la prendono con le persone più deboli, perché questo atteggiamento vile, appunto, ricorda sia gli anni 70 sia il periodo fascista che abbiamo vissuto in Italia. Adesso andiamo ancora avanti con un piccolo momento momento musicale. Dei paesi lontani, se non te scerri mai dei due dei castaglieni, dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati agli messavi con gli greci e bizantini, uniti in certo stile o c'è con gli giamaicani. Dimmi di dei due dei castaglieni. Se non te scerri mai delle radici cattieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle tue decaglieni, dai più valore alla cultura cattieni. Siamo talentini del mondo cittadini, radicali all'inventavi, quelli greci e bizantini, uniti in ciascun stile o c'è quelli giamaicani. Dimmi se le tue decastatieni. Yo, è il mio talento e qua non può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che all'italiano non lo saggio. Quando mi metto con rifletto parlo lo giamaicano stico, perché l'importante è questa in un poco di tutto, anche se di tutto abbiamo le mani butto. Ma se una cosa mi interessa su capace pure un metisto, se te qui su caglio faccio mi metto già e faccio c'è posto, perché tu per essere io che ha deciso del mio stesso, che la vera cultura è questa di vivere, tu piesti testo ma sempre senti che la vita è dura, è meglio stai amare pure quando te pare che è impossibile. Me la difendo, la tengo uscita con l'umore, la cultura mia rappresenta quello che è stato il capire in questo mondo, la rivoluzione è qui valore. Parla diverse, di diverse, di colore. Se ne le hanno tutto, pure la voglia di amare. Così che tanta gente faccio modo sta a reagire. Se ne le hanno tutto, pure le ricche per sentire. Ci chiede e chiede aiuto per i donni che no, sta a se ne le hanno pure la terra del tutta li vieti. Se cattano tutto, qui tu a cui dieci tieni. Ne dispiace per tutto, qui tu canne stagliati. Ma stiamo ancora qua, che qua non ne li mu masciuti. Chiaro, moi. Se non te scerri mai delle radici cattini, sì. Rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai dei tue dei cattini, dai più valore alla cultura cattini. Siamo talentini del mondo cittadini, radicati agli versavi, culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile, oce, culli giamaicani. Dimmi dei tue dei castaglieni. Nel rio della terra non c'è sempre lo sole, sì. La gente cerca ombra che la porta a pescare. A pasta scritto sulle pece già tu capire, su parole antiche fece l'uomo non può cangiare, no, no. Memoria e cultura vede qui stu caone, ricorda c'è successo così puoi di capire, tu poi attenta vittima pure dopo mendura, ma la vittima attenta poi a se non te ne cultura, su ste radici noi stiamo ben radicati, mi fanno amare popoli mai conosciuti, mi scordate ci medita, gloria e la guerra, ma di sti criminali la capo mia non si scelta, e che difendila, quando vuoi difendila, la terra tua, amala e difendila, senti me difendila, quando vuoi difendila, la terra tua, amala e difendila, le cine, le specule corrompe, difendila, le sciole sfrutta. Scusi signorina, chi è lei? Può farmi vedere un documento? Come si chiama? Ma che non lo sai, è Evelina. È Evelina, la suonatrice di sax. Ah, sei... Oddio. Allora siamo Region Air 87. Vabbè, la facciamo suonare adesso, no? Thank you. Questa è Evelina, ci ha appena dilettato con la musica dal vivo del suo sax. Allora, Evelina, come mai questa passione per il sax? Vabbè, sicuramente questo è uno strumento meraviglioso dal momento che ti puoi esprimere, specialmente nel jazz, che è proprio un genere che si basa sull'improvvisazione, ti puoi esprimere al meglio. E comunque sia, per collegarmi un attimo con il tema di oggi, il tema di cui stavate parlando, sicuramente la musica si può collegare in un certo senso, non solo con l'antifascismo, perché sebbene dovrebbe essere una cosa a sé stante, cioè la musica dovrebbe staccarsi un po' dalla politica, comunque sia, è un almeno il jazz è un genere musicale che tende proprio a esprimere la libertà di pensiero, perché in realtà la musica è un linguaggio, quindi si cerca di esprimersi in maniera libera, e purtroppo di libero in Italia in questo momento c'è veramente poco. Infatti la manipolazione delle televisioni lo sappiamo benissimo, proprio impellente, non possiamo farci nulla. Quindi io cerco di esprimermi a mio modo, con la mia testa, e ho scelto questo genere musicale. Grande Eve. Quando è iniziata questa sua passione per il sax? E raccontaci un po', diciamo, dove suoni, se hai incontrato qualche problema a suonare. Comunque si sa che la musica e l'arte in Italia incontrano dei problemi, soprattutto in questi ultimi anni. Sì, io ho iniziato 5 anni fa, più o meno, e ho avuto un sacco di esperienze con vari svariati gruppi, e ti posso assicurare che quello che dici tu è verissimo, perché ci sono tantissimi talenti che sono costretti a scappare dall'Italia, proprio scappare per fare un po' di fortuna, perché qui in Italia la musica è un optional. Se si va in un locale a sentire la musica, non si ascolta la musica è un sottofondo, che giustamente deve essere un sottofondo, però bisogna anche riconoscere che ci sono dei talenti che mettono impegno, e che quindi purtroppo mi dispiace molto per questa impossibilità di esprimersi e questo bisogno di scappare continuo. Quindi in Italia possiamo dire non c'è solo una fuga di cervelli. Quando parliamo di scuola si parla di fuga di cervelli, di ingegneri, possiamo parlare anche di una fuga di artisti da questo paese. Quindi adesso potrei continuare a suonare il tuo sax qui con noi con un'altra base. Facci ascoltare un altro pezzo di questa musica che ormai non si sente più così spesso. Grazie. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you. Allora, come potete ascoltare, diciamo, sono veramente emozionanti questi pezzi di Evelina. Qui dal vivo, dallo studio, sono ancora migliori. Quindi, diciamo, ci hai raccontato di questa tua passione per il jazz, dei problemi che incontri nel suonare. Diciamo, puoi raccontarci qualche tua esperienza particolare nel suonare jazz? Sì, sicuramente è stato un po' difficile perché... Cosa ti trasmette? Guarda, quest'anno io ho iniziato a frequentare una scuola un po' più seria, dove c'è proprio questo ambiente musicale con tutte persone veramente bravissime, il mio professore in particolare, via discorrendo. Comunque io ho suonato il sassofono anche in altri campi che non erano jazzistici, ma erano per esempio più sul rock, eccetera. E ho proprio notato questa differenza che mi ha fatto cambiare totalmente idea, perché suonando rock ero molto limitata. Non che volessi stare al centro dell'attenzione, in realtà, perché comunque è anche bello sentire in un gruppo rock un sassofono, è particolare, eccetera. Però sicuramente la libertà è maggiore suonando questo genere musicale. E purtroppo è un genere che o piace o non piace per niente. Molte volte ho incontrato persone che dicevano: ma che è sta schifezza, eccetera, perché proprio non... però non dico che sia sbagliato, perché ognuno ha le sue idee, però secondo me è il genere proprio più libero su cui si può spaziare di più, perché poi, come dicevo prima, improvvisare vuol dire parlare, quindi avere la libertà di poter parlare in questo paese non è tanto facile. Bene, è davvero bella questa tua passione che ci stai raccontando, appunto questa passione per il jazz. E senti, volevamo chiederti, noi abbiamo invitato molti gruppi, molte persone qui, ospiti a Region Air, e abbiamo spesso parlato dell'autoproduzione musicale. Volevamo chiederti un po' in questo campo, che purtroppo appunto ci rendiamo conto anche noi che è poco conosciuto, anche tra i giovani soprattutto, e volevamo un attimo chiederti, visto che è legato proprio alla libertà d'espressione, di improvvisazione, Come ti rapporti te con l'autoprodurti, se diciamo registri, oppure ancora non ti interessa, insomma, questo campo di registrare la tua musica, vuoi soltanto farla dal vivo? Raccontaci un po' da questo punto di vista, insomma. Sicuramente è molto importante per farsi conoscere, perché se certo. Tu hai una tua casa discografica che ti permette di fare strada, sarai più conosciuto, e sicuramente non per i soldi, perché molte volte bisogna pensarci, perché senza di quelli purtroppo non si può andare avanti. Però comunque è anche molto difficile trovare una casa editrice. Cioè sì, difficili, è abbastanza difficile, perché purtroppo o sei figlio di o sei raccomandato, almeno la maggior parte delle volte è difficile che si apprezzino veramente i personaggi che sanno suonare o comunque fare arte in generale, quindi bisogna avere fortuna, perché purtroppo una buona dose di fortuna ci serve, e poi se si riesce a trovare qualcuno che produca o registri è proprio l'apice. E te ci sei mai riuscita in questo, oppure purtroppo anche da questo punto di vista è un'altra critica all'Italia di oggi, all'Italia... Sì, direttamente o forse direttamente sì, io non personalmente ancora non ho... Però poi ho tutta la vita, diciamo, anche adesso penso più che altro a fare le cose che mi piacciono, e poi speriamo di sì. Evelina, grazie mille per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Un'ultima improvvisazione, lanciamo un'ultima base. Comunque abbiamo ancora qualche minuto e ricordiamo che noi mandiamo le basi e poi Evelina fa tutto il resto, e quindi... Altra base, Evelina. Con Evelina prima abbiamo parlato del fatto che è difficile produrre in una casa discografica, che devi essere il figlio di oppure l'amico di. Questo problema, diciamo, in Italia non lo si incontra solamente per la musica. Sappiamo che ormai per fare qualsiasi cosa le famose raccomandazioni sono fondamentali. Questo qua, a nostro parere, è un po' un frutto di una società che ormai è al completo degrado, dove per essere accettato o sei il migliore oppure sei l'amico di, il conoscente di. Soprattutto nella musica si può riscontrare questo problema, ne abbiamo parlato con tanti gruppi e ce lo conferma oggi anche Evelina, che sicuramente fa una musica che è meno apprezzata dalla massa, ma sicuramente che può trasmettere molto, come ha detto lei, e che per i pochi che la comprendono è veramente, veramente eccezionale. Adesso non so se vogliamo andare avanti con Evelina, che ci fa un ultimo pezzo, anche perché ci sta veramente dilettando qui in studio, anche tutte le altre persone. Spero che vi piaccia particolarmente. Siamo alla 5? Va bene. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Grazie ancora Evelina per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Veramente grazie. Continua così. Vengono con il tuo applausi. Spirito. Arrivano applausi dall'altra parte della stanza. E purtroppo di nuovo sono le 5, perciò vi dobbiamo lasciare. E vi ricordiamo che adesso in radio seguirà il martedì autogestito da femministe e lesbiche. E vi ricordiamo adesso alle 5 il corteo di commemorazione per Valerio Verbano e, a via Montebianco. e stasera poi alle 20 alla Palestra Popolare Valerio Urbano. Ancora vi salutiamo e vi lasciamo con un ultimo pezzo. Non mi svegliate adesso che sto a fare un bel sogno, non c'ho più soldi, ma perché non c'è bisogno, adoro il mio paese e non mi vergogno. Non mi svegliate proprio adesso sul più bello, piove solo quando dormo se non c'è sempre il sole, tutte le mattine sono di buon umore, vado a lavorare solo per poche ore, alla mia comunità do la mia professione, c'è fiducia tra la gente perché non c'è corruzione, sono fa politico, non fa l'imprenditore, sono un poliziotto, non puoi far torturatore, chi se vuole fa una canna non rischia la prigione, in galera pena vita, non affida al senatore, chi lo stato è per le persone, con la mafia zero connessione, sono ancora vivi Borsellino e Falcone, il mio sindaco si sa, non è stato un picchiatore, bava nella mia città non attacca al pippone, l'uomo non ha più bisogno della religione, nelle case non funziona manco più televisore. Non mi